Aspetta, guarda adesso se lo senti. Cioè, alternata e innesco, tutte e due assieme. Per l'innesco l'ho tolto, scusa, però ho abbassato il mic gain. Sì, ma l'alternata c'è sempre, oh, Fabri. Vabbè, c'è un altro alimentatore ancora, capito? Quella cosa strana è quella. Vabbè, ho comprato uno di quegli switch, però non ho mai usato, era in scatola. Può essere che anche lui non sia il top, però l'ho sempre usato e a me problemi non me ne hanno dato. No, Fabri, non l'alimentatore. Ti ho detto, ma lui cosa c'ha? La presa diretta attaccata alla corrente, alla spina con la presa, oppure c'ha qualche ciabatta, c'ha roba altra roba attaccata lì? Sì, c'è una ciabatta, ma no, non credo che senti molto. No, se quelle ciabatte al pulsantiera lo fanno. Prova a attaccare l'alimentatore diretto alla presa, a vedere la spina alla presa diretta. A vedere se lo fa Fabri, giusto così per capire. Provo l'altro alimentatore per vedere. La ciabatta non c'ha massa, invece l'impianto, se ho fatto bene, c'ha la massa. No, ma non c'è massa a terra qua, pure quello, capito? Sì, allora. Perché è molto così fastidiosa questa alternata? Sì, si sente molto. Più di prima? Come prima, più di prima, Tamerò. Umbe. Aspetta, provo a cambiare. Quindi si rimette l'altro alimentatore uguale, vero? Sì, l'alternata c'è sempre. Come poco fa? Yes. Quindi non è che è diminuita, aumentata, vero? No, sempre uguale, però c'è sempre. È proprio fastidiosa, cioè te la porti proprio dentro la modulazione. Eia, è uguale, non cambia niente, qui non è un problema di alimentazione, Fabri. Metti la presa, la spina nella presa diretta, falle togliere la ciabatta, da dove lui sta alimentando la ciabatta, alimentati tu con l'alimentatore, fai la prova. Però se hai fortuna, nonostante non ci sia piano di massa lì, ma che hai fortuna, a me me l'ha fatto una volta, ho cambiato la spina da una presa all'altra e non me l'ha più fatto. Prova. Faccio un paio di prove. Ma invece a stazionario com'è? No, non è a stazionario, dove c'è la zero i stazionari. Vabbè, un conto voglio misurate anche per vedere, no? A volte, sai, le stazionali non fanno uscire bene la radio, si sanno, no, queste cose? Non lo so, ho detto che non ne ha, quindi noi siamo fidati di quello che ha detto lui, non so se li ha misurate o che cosa, penso di sì. Ascolta, adesso ho spostato la spina, sei sempre. Togli quell'innesco. C'è sempre, cazzo. Boh, aspetto, comunque gli attacco lo strumento, così vedo cosa come sta uscendo, come va. Aspetto, ci sentiamo. Aspetta Roberto che ti porta all'80 e poi provate l'80. Ma non è invece che sarà che c'è alternata nell'alimentatore, no? Perché se non è stabilizzato al 100%, può essere anche quello, nell'alimentatore. Basta provarlo col tester per vedere se c'è voltaggio sulla continua in alternata. Ne ha provato due, non saprà lui. Ma lì c'ha due switching, capito? Non sono alimentatori stabilizzati, però io li uso gli switching, questo problema non me l'hanno mai fatto. Allora, questo problema di alternata, lo switching me lo faccio, questa radio che sto usando. Se io prendo i cavi di questo baracchino, li attacco nel switching, senti la stessa alternata che sta uscendo lui, così. Infatti io questo baracchino lo devo attaccare, in uno l'ho stabilizzato, se no mi fa quel problema. Io c'ho un po', c'è da 60A, viaggio 30 anni, alternata non me l'ha mai fatto. Gli altri due sono switching, lo stesso. Non lo so. Però io c'ho un buon piano di massa, Giulio gliel'ha visto. Fatto regola parte. Non lo so, Massimiliano, provassi pure, comunque ne ha provato due, adesso vediamo. Proverà con lo strumento. Ma lì c'è anche il problema che vedi, se aumenta innesca pure, quindi c'è. Magari c'è qualche altro problema, boh, non lo so, comunque, vedrà lui, là, già c'è. Già in buone mani, là. Io ho visto che è montata l'antenna e mi sono fatto un po'. Mi ha fatto un'impressione un po' montata bene, per carità, però opera miera, beh, in chi vi invito. No, vabbè, quello non vuol dire niente, Cla, perché se tu ti ricordi quell'amico nostro che modulava da dentro quella casetta di lamiera giù vicino a Sorso, ce l'aveva proprio collegata lì la cosa, l'antenna. Ok, aspetta che mi hanno fatto lo squillo. Infatti non è mai uscito, se si riprende benito non ho problemi a dirlo, quante volte gli ho detto, non è mai uscito bene. Rumori di alternata, rumori di fischi di MC60, inneschi quando attaccava a lineare, di tutto e di più aveva benito sempre in chivi. È normale. Chi vuol fatta la massa a terra? Trecciola, l'attacca alla radio e sparisce l'alternata, anche se c'è qualcosa di alternata nell'alimentatore, è possibile, io ce l'ho un alimentatore e in continua ci sono due volte di alternata, se si attacco quello c'è l'alternata, ecco questo. Invece il problema mio è la ventola, la ventola mi dà del fastidio, però purtroppo non ho la possibilità di allontanarla. Stavo pensando di metterla dietro il muro, nella trastanza, preso un po', anche per evitare il rumore della ventola, ma alternata niente. Senta, per fare giù, un bocannino la ventola. No, sindaca, come sta bruciando, così forse come fatto l'arrosto di quell'alimentatore ieri notte, per carità. Ma è che ha arrossito l'alimentatore? Sicuramente l'ha arrossito, perché hai cominciato bene con quell'alimentatorino, cos'era, 100 watt, quanto era, che ieri lo sentivo, infatti ho detto finalmente che la riesco a sentivo bene, poi tu mi hai detto abbassa la potenza, io non sei capace a abbassare la potenza, ha abbassato il corso, il mic gain, abbassato, capito, e allora siamo sempre a capo, è inutile che metti potenza e poi mi abbassi il mic gain, perché io mi hai detto giustamente che era stato, ma era stato solo perché c'era troppo ingresso. Poi ha cominciato a parlare, faceva passaggi di un quarto d'ora, è logico che il finale di quell'alimentatore hanno fatto tilti io in otto, perché andando, poi è sparita completamente la radio. Sì, come hai visto poi io mi sono andato, perché se ti dico di abbassare il watt e tu mi abbassi il mic gain, non ti comprendiamo, infatti me ne sono andato, aspetto tutto. Infatti, già lo so, dove sei andato, ma noi ce l'avamo e stavamo appunto parlando, ma lui ha fatto così, faceva passaggi lunghissimi e non gli dava respiro a quell'alimentatore, evidentemente l'ha fatto scordare troppo il finale e allora è sparita completamente, perché questa modulazione, man mano che lui continuava a parlare, andava e si abbassava sempre di più, fino alla fine è sparita completamente la modulazione, c'era la portante e non c'era più il radio. Cazzo, per far ridere, quando entra mi fa vedere lì, comincia a fare da, sta due ore parlando e non si rende conto che deve staccare, perché fino a quando io rimango un pochino col PTT e non c'ho niente attaccato, il funzionamento della radio è quello, i watt sono quelli lì della radio, va anche bene. Ma io quando uso il baracchino, che magari faccio qualche passaggio con l'amplificatore giusto per farlo andare, e faccio passaggi corti, non puoi stare un'ora a vedere con un relè agganciato su un amplificatore dando potenza, cioè è un'altra cosa, capito? Quindi evidentemente lui non se ne accorge. Te lo sto dicendo, quello ieri notte l'ha arroventato là con la lineare. No, guarda, questo mi ha fatto venire invece, che Gianni gli ha chiesto quant'è, 9 più 30 a Gianni, quando io ho sentito così mi sono messo a ridere. Ieri notte invece ha chiesto a padre, quanto ti sta levando? Santiago 7. Ti puoi immaginare, Oca? Non ci arrivo neanche io 9 più 30, arrivo 9 più 20 perché l'ho visto io il segnale mio, che me l'ha fatto vedere nella foto. 9 più 20 arrivo io, ma ce l'ho davanti. Cazzo, arrivi a 9 più 30, non arrivi neanche no che 9 più 30 Gianni, quando è attaccato, quanto ha fatto dalle 9 più 30 non so più. Appunto, insomma bisogna accelerare, non è che siamo a un tiro di schioppo, uno all'altro, 9 più 30, quando attacca che mette un po' di abbate arriva a 9 più 25, il massimo, se no quando usa un watt naturalmente ne arriva 9-10, però poi modulati arriva a 9-20 tranquillamente. Per dire, no, 9 più 30 l'ha ripetuto, ma mi è scappato a vivere, guarda, veramente, e poi anche io non mi è scappato a vivere, per quanto mi era Santiago 7, perché prima gli hanno mandato il filo, il coso, come si dice, il controllo. io sono andato lui. No. Che cosa vuoi che ti dica? Riprendi Massimiliano, dai, lasciamo un bianco. Non posso gelato, ma ribuccio a Fabrizio a provare. Sì, già proverà Fabrizio, già si sente quando entra. Non c'è problema. Stanno misurando tutto prima, là. Ma è coso, Gianni doppio rum. Dice che era di Ronda oggi, così. Ha detto riprendo dalla macchina, ma io non ho sentito ancora dalla macchina. Oggi Gianni è andato a caccia, è andato, se vede. Non vuole andare a caccia, beh. Non c'è niente da fare. Ma no, lo dico per presunzione, lo dico con tranquillità, vai tranquillo. E non mi imbaglio. Ma se è sbagliato Massimiliano così, senza fare prove. Tecnicamente come li ho fatti io non ci sono errori, non si sbagliano. E poi mi sono fatto 1+1 qualche sega mentale e dico sempre che il lupo perde il pelo ma non il vizio. Non sbagliando mi gioco Giulio. E quante volte l'ho detto io che il lupo prende il pelo e non il vizio, già lo so, purtroppo è così, e guarda come va. Bianco là. Vabbè, io ce l'ho rosso, ma è uguale. Cos'è lui? Prefetta? Quindi è femmina. E non lo so se. Boh, ha detto che era chi c'è, boh, era chi c'è. Beh, ha detto che c'è difficile da bere bene male. Può salire anche Roberto su da Riccardino. Sì, Roberto va andare quando chiudeva, che ore sono? Le 6? 7:25. Ha già chiuso, Roberto chiude alle 6, 6:15, 6:30. Ho portato il microfono stamattina e doveva salire lì. Ho visto a portarglielo. Non so se dovevano fare, forse lo avrei con Fabrizio anche. Domani Massimiliano tolgo la matta, vai. Tolgo la matta, vado lì. E come mai? Perché la voglio mettere dalla mia parte, a fianco alle direttive lì. La metto lì. Ho già preparato il palo. I due che ci sono più altre due, 2, 4, 6, la porto all'altezza quasi della 510, capito? Non era andato dall'altra parte, oggi non ne avevo voglia, avevo altre cose da fare, ho andato a Salva Leasing stamattina, adesso speriamo domani, forse sto guardando il meteo, è stato bello, però sto guardando il vento, a me mi interessa il vento, non mi interessa se la giornata è bella o brutta, quanto non ci sia il vento. Guarda, io non so se lavoro qua, io alle 9:30 devo essere lì dal medico, ti ho detto, devo fare la visita medica dell'azienda. Se per caso poi, mi ho mandato un messaggio adesso, se per caso poi non lavoro, se ti serve una mano, 10 minuti, vengo e ti aiuto, problemi non ce ne sono. Ma Silvia, è una cosa così semplice da fare, il mio lavoro, vediamo. 116 km ora, invece oggi è 14, domani 16, un po' di più, domani sono 28 gradi, per lo più soleggiato, 16 km di vento, oggi 14, quindi più o meno siamo allo stesso livello di oggi, vabbè, vediamo domani mattina, se vedo che non c'è vento me la salgo su, dopo che porto il cane, tanto domani sono libero. Non faccio questo lavoro, capito? Perché così elimino circa 20 metri in cavo, circa 20 metri in cavo, 15 metri. E mi collego allo spezzone dalla mappa, va 4 metri, 4-5 metri, vale 6 metri. Il cavo che va direttamente al commutatore che c'è su. Così eliminiamo tutto quel cavo in eccesso. Mi porto l'antenna dalla mia parte, che da poco, all'ultima riunione che abbiamo fatto, c'era qualcuno che appunto che ha detto come mai una delle mie antenne era sul lato dell'altra scala, no, oggi manco riposo, l'ho lasciato dire. Poi l'altro giorno siamo visti con l'amministratore, ho detto ma cosa volevo, ma che te frega, siamo una polizia, ma che te frega, ma lascialo dire. Ho detto no, ricca, ho 2 minuti, la tolgo, la lì è sul mio lato, poi volevo vedere se dovesse venire lui a chiedermi la chiave per la parabola che lui c'ha su quel lato, a vedere. Sono convinto che prende l'autoscala per salire, perché chiavi della Massara non gliene do. E fai bene, fai bene. Va bene. Sì, vabbè, come fuori, problemi non ce n'è. Non c'è problema, Claudia. Se te la porti da parte tua, vabbè, fai bene. Ma non c'è bisogno che sollevarla così tanto, una gradina a frutti. Sì, ti metto altre due pali, dai. Poi proprio sul lato mio passa in pieno proprio, scavalco direttamente la collinetta dove abita Riccardo, perché lì me la copre, capito? Invece lì scavalca completamente, quindi potrei anche guadagnare qualche punto in più verso Sorso e verso la costa, perché inizialmente era lì e avevo qualcosa in più, mi ricordo. No, vabbè, lì è bassa, c'è 2 metri il palo, ce l'ho il palo suo, glielo rimetto, me la tiro su, perché vabbè, ti ricordo che 2 metri sono attaccati al muro di palo, quindi 2 metri sono fuori, 4 metri, ma 4 metri, 5 metri, dai, 5 metri, anziché 2 metri, 5 metri, lascia 2 metri fuori, c'è solo un elemento fuori, invece lì ne metto altre due, però non li tiro tutte e due al massimo, là, di regola, so. Vabbè, no, l'abbasso, ma c'è idea, io lo sai, ci arrivo benissimo, l'abbasso, questa qui tirati, l'abbasso, la sgancio direttamente dal tubo, me la porto intera così com'è nell'altro fianco, e la innesto, perché prima mi preparo il tubo già, e poi la innesto, così ci vuole 10 minuti di lavoro, mica la devo smontare, no? Non smonto niente, non tocco niente, manco la pulisco, niente, la rimetto com'era. Sì, già va bene, ma tu per evitare il vento sai che cosa fai? Ti alzi presto e sali alle 7:30 sul tetto, che tanto è già bello che è giorno, e la mattina presto un vento così forte non ce n'è. Sì, infatti mi sei fatto uscire, io per la mattina esco alle 8. Capito? Vado dove San Francesco, vado dove sono fax e cose, poi torno a casa, porto a lui, poi se devo rientrare vado, se non ho niente da fare me ne sto a casa. Capito? Poi stamattina avevo 3 cose da fare in altri uffici. Va bene. Ma anche non mi chiami il cognato, c'è da preparare quella cosa che ti ho detto, quindi se devo andare al commercialista non lo so. Vabbè. Va bene, e adesso guardo la mattina, tanto in basso presto, me ne accorgo. Se è bella giornata, perché dovrebbe essere come oggi, salgo su direttamente presto, il cane a porto verso 9:30 quando ho finito, c'è buio e luce. Allora Fabrizio, come siamo messi lì? Niente, sai, sei fusato a un saldatore di quel di Sant'Agno, niente ne sai qua. Ma ne ho visto qualche d'uno in vetrina, tipo quello che c'ho io, a punta fine, quelli lì stai dicendo col porta saldatore. No, ma guarda, ce l'ho, ma non mi serve, non mi piace questo. Io non voglio da 100 watt, almeno minimo 100 watt, perché sia istantaneo. Cioè, appena che schiacci, scalda subito. Come era una volta il saldatore, tipo pistola, eh? Io lo voglio così, perché quelli di punta, sì, sono buoni anche quelli, ma per piccole saldature, se devi scaldare qualche cosa di più grosso non ce la fanno quelle lì. Scusate, entro al volo un attimo. Ragazzi, io chiudo che devo fare una commissione, insomma, importante, dai, ne approfitto, dai, vi saluto tutti, grazie della compagnia, della chiacchierata, dai, Claudio, Giulio, Massimiliano e tutti gli eventuali che magari mi sto dimenticando, dai, grazie mille e alla prossima, ciao, buona serata. Ciao Gianni, buona serata anche a te. Ciao già, buona serata, alle prossime, vai Massimiliano. E tanto non ci leggiamo prima, quindi va bene, va, ciao Gianni, ci sentiamo alle prossime. Giulio, ti prendo una stazione saldante, 59 euro da eBay e c'è anche aria calda. Infatti stavo pensando, se non la trovo qua, la Fusano, me la ordino e ciccia, così a me aspetta, saldatore come si deve, perché io ce l'ho un saldatore da 100 watt. trovate quelle di Sant'Ania, però non si trovano più le punte, non si trovano le punte assolutamente, e dunque non è come se come, è come non averlo, la stessa cosa, non cambia niente, se non va la punta, perché dopo tantissimi anni, ma una punta mi sarà donata a 40 anni, per dire, no, adesso io sto esagerando, ma per dire, ma se non ce l'hai, cosa te ne fai, io sono datore, senza la punta, non si fa nulla. E allora ho pensato, se non c'è stata, me lo ordino da fuori, perché al computer li ho visti, costano intorno ai 40 euro, 36, 37, 38, a secondo dei gusti, 40 euro, quello verde di marca, di quello buono insomma. Siamo Scimi che ha chiamato Fabrizio, vai Fabrizio. Allora, gli ho rimesso l'alimentatore suo che secondo me va bene, non c'entrava niente, in più gli ho messo il wattmetro per tenere più o meno sotto controllo il tutto, che è meglio, quello che c'è un piccolo commutatore, quello il 1000, il TM1000, così un domani fa attaccare un filo per fare ricezione, fa uno per parlare e due per ascoltare. Guarda, così sei perfetto, ma stai usando l'80? No, l'MC60 sto usando adesso, sempre quello là. Ma non è arrivato Roberto? No, sto aspettando anche io. Questo qua, vabbè, se vediamo quando porta l'80 e vediamo come va. Qui stai uscendo bene, la modulazione non è forte perché non puoi dare amplificazione. Però va bene, il rumore io non ne sento. Ma detto che chiudevo le scene, dare un colpo di telefono a vedere. Avanti Massimiliano, come lo senti adesso? Prova, metti la portante. Io non è che adesso non voglio essere un po' troppo cosa, però io l'alternata c'è sempre. Vabbè, c'è poco poco rimane, l'importante è che vada bene, che sia tutto buono. Considera che qui non c'è messa a terra, l'antenna, c'è tutto un insieme di cose che alla fine, capito, ci sono. E che avevamo cambiato quelle più 5, infatti da me andava bene, l'ho portato qua e da quel problema, guarda, adesso sono altro po' il mitigate, vediamo se sta innestando. No, ascolta, riprovalo questo MB più 5, riprovalo a vedere. Ce lo provo, dai, perché da me andava bene, cablato, tutto alimentato, e qua invece da problemi, però va bene, aspetta. Provo, vediamo. No, ha proprio rumore di alternanza, è la grande. Lo so io. Lo sento proprio. Abbassa le micchie del coso, del microfono. Cioè così, per esempio, toccando. Oh, è proprio un buon problema, non va bene qua. No, il problema è proprio su quel potenziometro, secondo me, perché come lo tocchi sfrega, fa tipo rumore di, si presente quando c'è molto vento, così. No, adesso è bassissimo proprio, da lei è proprio un pelino ancora in più. Il potenziometro. Perché se lo muovo, non si punto, lo sento questo. Sparito ora, vero? No, c'è ancora. Facciamo qua. C'è ancora? Sì. No, è fortissimo anche. C'è tutto l'impianto sicuramente, tutto la comune, dai, tutto è normale. No, è proprio tutto a fischio, non si capisce niente, neanche la modulazione, va. Ma l'hai alimentato dalla radio, Fabrizio? Adesso sono con l'MC60, sì, è alimentato dalla radio direttamente, capito? È alimentato direttamente dalla radio, però infatti l'ho provato a casa nel mio 440, andava benissimo, abbiamo fatto le prove con Claudio, vengo qua e da problemi, però è un problema di tutta una serie di cose. anche il fatto che l'antenna è troppo vicina può essere. Buonasera. Scusi un attimo, ciao, sì, buonasera a te. Sì, ma quello stavo commentando. Oh, Fabri, guarda che Roberto è arrivato adesso, ok. E adesso proviamo. Ciao Tino, Tino, non si può dire, è qua, è la radio tua. Sto impazzendo, ieri alle due, l'altro giorno, allora... Siamo un po' qui. Ho fatto le prove, allora di radio adesso sta uscendo, ma adesso c'ho problemi sulla parte del coro, mi ha già bruciato due altoparlanti, due casse, e sta succedendo qualcosa lì, la portante quando schiacci ci sono delle, un sacco di cose, tutto rugginoso, il problema è troppa, non so se hai visto il video, là. Sì, sì, ma se non so chi c'è. Diciamo che ho visto il video, qualcuno mi ha mandato un video e ha detto ma chissà cosa succederà in seguito. Fabri, cosa vuoi che ti dica? È così, mi ha fatto, te l'ho detto, non te l'ho spiegato. Il problema è che quando metti a posto una cosa, quando chiudi, ce n'è un'altra, perché cazzo, ho cambiato condensatori elettrolitici, ho cambiato condensatori ceramici, ho cambiato valori per fare tornare alcune tensioni. Ieri notte alle 2 ho finito, quindi non c'è audio, cosa c'è? Aspetta, un altoparlante pure bruciato, l'ho cambiato e sono andato a letto, stamane acceso, sembrava andava bene, dopo un po' nuovamente muto, perché? Però ho misurato, ho delle correnti strane che stanno arrivando sull'altoparlante, oggi provo a mettere un condensatore, ma c'è lo che sta parecchi così, mi da uscire di testa, adesso ci poi ti aggiorno, dai. Eia, va bene, Ascolta, adesso è arrivato Roberto e proviamo l'MC680. Eia, sono qua. Vabbè, io ho messo l'MB4, però è alimentato con la sua batteria, sempre sul 440, come quello che sto usando adesso in questo momento. Ciao Giulio. Ciao, va bene, tu, lì c'è un altro problema. Vediamo un po' col l'80 cosa succede, dai. Vediamo un pochino. Vabbè, Rubio Grosso. Ciao Massimiliano, scusate, io ho acceso, non so neanche che ci sia, E allora, quando accendi, prima di tutto devi fare il break, anche se poi sei grande e grosso, capito? Ma di prepotenza arriva, andiamo così che zin, come vedete. Devo dire, è agganciato. Che ti si agganci, certo. No, non arriva così, no. Sì, no, tu mangi troppe bistecche, arrivino per 25 qua. Soprattutto arrivo più d'aglio. Ascoltate, io sono in un fosso, mi devo far sentire. Siccome mi dicono sempre che sono piccolino, allora mangio troppo. E che te lo dice che sei piccolino? Non ti hanno mai visto nella università. Ma tu sei basso, sei grasso, sei quello, va bene. Due, è uno più di me. No, adesso già dimagrito, colorido. L'altro giorno ha messo un po' di scadecolto sulla graticola. No, là, se mi va bene adesso devo staccare un po' di roba, non voglio darci su con il più 5, perché questo è il più 4, non mi piace, non mi soddisfa. Ecco. Avanti Fabri. Allora, vediamo un po', questo è l'MC80. Sì, un'altra gruppa, inizia a abbassare appena il Mickey Gay, vai, appena però. 1, 2, 3, prova. È difficile. Sta andando molto bene, lo vedo anche dallo strumento che non lavorava lui. L'aveva fatto o l'aveva fatto? Sì, non va bene quello. Non so, io guarda anche qua lo strumento, prima andava in negativo, guarda così. No, quelli su. Abbassa ancora appena, Fabri. Abbassa che sei un bel forte. Ci siamo rizzati, li siamo ributtati. Lo regolo io o lo regolate voi? Mettiamoci d'accordo. No, preferisco Claudio che già lo sa. Vai. Ok, abbassa appena un pelino. Abbassate un pelino. Un altro pelino? Lo penso proprio. A quanto ce l'hai, Mickey Gay? Meno di 3, 2,5. Guarda, lo puoi mettere un pelino meno di 2,5, ma proprio un pelino e tu sei una gannonata. Non poco, una gannonata. Poi mi fai sentire a Riccardino come esce. Aspetta che ti lascio un Riccardino, vai, fai un regola la poli Riccardino, che lui c'è la voce bianca. Ciao Claudio, ciao a tutti. Cosa te ne vai? Allora lì mettili un chiodo però Fabri, togli tutti i pulsanti e mettili un chiodo. Vabbè, intanto l'MC80 non si può regolare, è regolato da dietro. Perfetta la modulazione, per me è perfetta la modulazione. Questa è una modulazione che vuoi, vai Massimiliano. No, per me no, per me deve abbassare ancora. Anche per me, No, vabbè. se ognuno dice la sua, allora ci capiamo. Stiamo ricevendo tutte e tre con la stessa radio, quindi per me va bene così. Metti solo una portante. Sinistra che c'era un bip. No, vabbè, lascia perdere quel rumore che c'è sotto di alternata, a me mi interessa la radio, parla Riccardo. Ehi, adesso prova, uno, due, tre, prova radio. Non ti avvicinare a quel microfono, parlaci a 20-30 centimetri, mettiti alla 2 il Mickey Gain, Fabri. Perché sta pappareggiando, non peraltro. Uno, due, tre, prova, uno, due, tre, prova radio. Non ti avvicinare al microfono, non devi pappareggiare, allontanati 20-30 centimetri e parla normale. Ok, adesso come va? Appunto, quel microfono è come l'MC60, forse anche più forte, ok? Quindi parlaci a 20 centimetri, non ti avvicinare sopra la spugnetta, capito? Ma infatti non mi ero avvicinata alla spugnetta, ero anche più lontano. Perfetto, così vai bene, Tino? Allora, grazie, dopo la mia dovrebbe passare, però se gliela fai volando tu, ve la dirò tu. Io non so cosa dirti, per me sta ancora papereggiando. No, non sta papereggiando niente, no. Togli il filtro del corsetto. Non so cosa c'hai attaccato tu, se c'hai qualche filtro inserito con la radio, non so ma cosa stai usando. Giulio, come lo senti tu? No, non mi piace qua, non è più bella la modulazione quando era con 60. Manca a me mi piace, deve abbassare ancora. Io non noto differenza da 60 a quella. Abbassalo un pelino ancora. Allora, guarda a me, adesso faccio io. Allora, abbassato un altro po'. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Vedi un attimino come sta uscendo. Sono venuti Giulio a differenza da 60. È uguale con Fabrizio. Sia 60 che l'80. No, mi piace più il 60. A me piace più il 60. A Massimiliano non lo so. Vai Massimiliano. Prova. Adesso ho acceso questo. Vediamo un po'. Ecco, adesso ho abbassato anche un pochettino. Mi avete detto il Michini. Lo mettiamo a 2. Adesso siamo a 2. Perfetto. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Vedi tu, non lo so. Sì, però allora le dici, se state facendo delle prove modulatori, dici a Roberto, a Riccardo, o si allontanano, perché io sto sentendo più forte a loro che a te. Ecco, guarda un po' adesso, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Sì, gira anche bene con lo strumento, vedo che sale tranquillamente. Cosa volete di me? Aspetta Claudio, va abbassato. Cazzo, non essere così, Claudio, era troppo forte. Adesso va bene, questo passaggio va bene. Inizio a sentirla già meglio la radio. Claudio, non stavo uscendo bene prima. È inutile dice la puntella, il chiodo. A me non mi piaceva, troppo forte. Nell'ultimo passaggio stai andando bene. Fabri, fai parlare a Riccardo con quest'ultimo passaggio così? Ma sì, stai nel scambio. Vabbè, niente, non metto lì, guarda, perché uno dire cazzo sto uscendo male, di te sto uscendo troppo forte, non sto uscendo male. Giulio ha detto le piace più l'80, il 60, c'è un abisso, ma il 60 con rispetto alla modulazione di adesso, Giulio, c'è un abisso molto più chiaro e molto più forte. Provo così adesso, sto parlando io, sta arrivando bene come la radio. Per me vai benissimo, non bene, benissimo. Poi se agli altri non le piace, pazienza, cosa vuoi dire? Io lo sento meglio con 60, poi ognuno ha i suoi gusti, io lo sento meglio con 60. Posso dire la mia? Ma se non fa radio con 60, Giulio, come fai a dire che lo senti meglio con 60? Il 60, quel 60 è un microfono normale, non c'è manco preamplificazione. Come fai a dire una cosa del genere? Mi meraviglio di te. Avanti Tino. Allora, se mi permettete di dire la mia, poi magari valutate voi. Allora, quando stava parlando Fabrizio, la radio era spettacolare, ma anche perché la timbrica della sua modulazione è quella che è, la conosciamo bene. Riccardino purtroppo ha una voce più squillante, più una voce bianca, e non si avvicina con i microfoni. Io avrei abbassato, ma poi fate quello che volete, appena di più per quanto riguarda la modulazione di Riccardino. Poi questo è il mio parere. Allora fate una prova, adesso sto parlando io parlo sempre a questa distanza con il microfono e con questa intensità di voce, come mi ascoltate? Allora, per quanto riguarda, rispondo io perché tanto, per quanto riguarda la tua modulazione, è quella di Fabrizio, niente a che dire, sottolineato, va benissimo il microfono, va benissimo l'amplificazione, va benissimo tutto. Per quanto riguarda una voce bianca, per me no. Intendevo io ho detto che mi piace più 60 con la voce bianca, però adesso che ha parlato Roberto e anche Fabrizio vanno bene, però non mi puoi dire che parlandoci Riccardino è più bella, io la sento più brutta, io lo sento meglio, anche se non è amplificata, però è la più chiara la modulazione, la sento meno cupa, quindi cupa. Io Giulio non ti contraddisco, ma io la sento bene, assolutamente. Io adesso ho cambiato dal 430 al 440 e la sento uguale, precisa, identica. Una bella modulazione. Rispetto all'MC60 è completamente diversa, perché sono due microfoni diversi, ma 60 rispetto a quella che sta usando adesso l'80 c'è un abisso, sia come tonalità, sia come voce molto più alta. Io la sento chiara, cosa volete vi dica voi? Se vuole sentite cupa, io cupa non la sento. Per me va bene. Se voi ti mando una registrazione, Fabri, per me va bene, poi valutate voi lì, non lo so, per me va bene così. Io non sto parlando di potenza sì, è più forte di potenza, però per la voce di Riccardo secondo me è più bella quella del 60, poi ognuno ha i suoi gusti, io ti sto dicendo quello che piace a me. Se gli altri lo sentono diversamente è un altro discorso, ma a me mi piace più quando parla con 60 con una voce che è meno amplificata, allo stesso tempo più chiara, più voce bianca, insomma più voce di ragazzo, di bambino. Vai Ricca, prova a parlare, allontanati un po' dal microfono. Ok, adesso mi sono allontanato dal microfono, sono a una trentina di centimetri. Ecco, se parli così a questa distanza già inizia a cambiare la musica. Vabbè, allora prego io la tucca, vai, non ci metto più lingua. Non ti sto dicendo, ma ci vediamo, non metterci lingua neanche i piedi. Io sto rispondendo a Giulio, non a te. Ok, per me questa modulazione va bene, va bene. Se le lascia al 60 non c'ha voce, è come che stia usando un microfono normale, a cosa serve allora usare un 60 se non va bene? Ok, ordinati allora il microfono nuovo MC60 e poi lo riprovi, non ci sono problemi, ma per me tra l'80 e il 60 che lui usava c'è un abisso, completamente un'altra radio, forte, chiara e va bene. Ora senti, sono più forte, io sto parlando di chiarezza, io non sto parlando che non sia più forte, è più forte, certo che è più forte, però la voce è più pulita parlando con 60, o perché non è amplificata, o meno quello che vuoi tu, d'accordo, a te ti piace la modulazione forte, e sono d'accordo con te, io non ci metto lingua, però come chiarezza di voce per me è più chiara il 60, io sto dicendo quello, non sto dicendo che esce male, sto dicendo che esce più bene e più una modulazione più chiara con 60, tutto lì. Tu adesso cosa stai usando Giulio? Permettimi, 60 o l'MB più 4? Sto usando l'MB più 4. Ecco, l'MB più 4 rispetto al 60, la differenza che tu hai è che il 60 è molto più aggressiva, ma è molto più confusa, molto più espansa, molto più, cosa ti posso dire, a volte anche gracchiante. Questa invece è meno gracchiante, meno confusa e allo stesso tempo è forte. Questa è la differenza. Ma comunque perché questo MC80 deve essere perché è molto sensibile, ho visto, e l'essere mi ha cambiato un po' la voce. Aspetta, Riccardì che ti registro a vedere come arrivi qua, poi tirate voi le somme, perché io sto usando il 440 come sta usando Giulio, come sta usando Massimiliano, come sta usando anche Tino, però non vorrei dire fesserie, così vi fate voi un coso. Allora, quando te lo dico io parla Riccardo, dai. A te riprendo io, tanto mi porto via l'MC60 e lo controllo, vedo un po' cosa è, perché non va l'amplificazione, è quello che avevo ricostruito magari una fesseria. E comunque io l'ho sentito dalla macchina e mi è piaciuto Riccardino dalla macchina. Ma senza un paio di dubbio Fabri, tu stai scendo da favola, perché la tua modulazione è uguale all'MC60, lui chiaramente ha la modulazione un pochino più calda e quindi chiaramente quel microfono è diverso. Però io ti ripeto, fai parlare a lui, se no parla mentre io registro e vi faccio sentire come arrivate, poi non si sentono fischi, non si sente il rumore d'alternata perché la supera, la modulazione va bene per me a questi livelli, se la aumenti rimane troppo alta e un po' troppo confusa, capito, si tira dietro troppi rumori, però così va bene. Adesso nell'ultimo passaggio era perfetto Riccardino, forse deve parlare più piano. Sì, deve parlare un pochettino più lontano, ecco perché era perfetto nell'ultimo passaggio. Probabilmente proprio così, infatti stavo per dire anche quello, perché quando parla ad esempio Fabrizio parla, è bellissima, va benissimo, però quando ci stava parlando Riccardino la modulazione non era così perfetta come lo sentivo con 60, provo a parlare da lontano di nuovo perché l'ultimo passaggio che hai fatto, come stava dicendo Natalino, era bella, andava bene. Vai Riccardino. Ok, adesso l'ho abbassato a vedere com'è, sto parlando sempre distante dal microfono. Così va bene, per me così va bene. Voi cosa volete che mi dica? Per me così va benissimo. Senditi la registrazione, farla sentire a Fabrizio e a Roberto Riccardo, poi valutate voi, per me va bene così. Che parli a 20 centimetri, che parli a 30, certo non ci devi andare sopra il microfono, per me va bene la modulazione. È una bella modulazione. No, io l'ho sentito dalla macchina e mi è piaciuta. Adesso sta un passeggio Riccardino, io ho abbassato leggermente il mitigain. Vai, facci una chiacchierata tu, vai Riccardino, avvicinati, non troppo lontano, se no poi ti brutto anche quello lì, vabbè, prova così. Ok, così mi sono avvicinato un po' di più. Fai un discorso. Faccio un discorso che, come ho detto, visto che è sensibile a questo microfono, è diverso proprio all'MC60 e mi ha cambiato la voce. La voce è bassa, ovviamente. Ascoltati le registrazioni, però, ascoltati la tua voce su WhatsApp, Riccardo, ascoltatela, così ti rendi conto. Io l'ho sentito dalla macchina e mi è piaciuta. Così già va bene. Sì, ma l'MC60, se non avrai dubbio, rispetto all'80, io... ho l'esperienza di averli provati tutti, 80, 85, 60 e così via, e 60 prevale sempre con la mia modulazione, ma l'80 non è male, perché io l'ho usato qua, l'80 e spinge da bestia, e non c'è nessuna differenza, ma ripeto, con le mie corde vocali, con Riccardo la differenza si nota tra il 60 e l'80, Giulio, e stiamo dicendo la stessa cosa, però non è molto aggressiva così con Mickey Gain a 2. Non è aggressiva, va bene, certo, è più amplificata, ma a me non c'ha tutti quei rumori appresso. Ma è quello che sto dicendo da poco fa, sto dicendo quello, come potenza, è più forte, certo che è più forte, anche perché il 60 non era amplificato, però se dovessi valutare la qualità della voce, con 60 era più chiaro, adesso si sente bene ugualmente, però dovrebbe parlare proprio da lontano, ma da lontano veramente, no? Non magari a 20 centimetri, no, se proprio a 20 centimetri rimane cupa, io non la sento cupa, quello che dica, tutto lì, claro, poi ripeto, ognuno ha i suoi gusti, eccetera, eccetera. Comunque io anche con 60 lo sentivo benissimo, lo sentivo, anche se non era amplificata, ecco, tutto lì. Sì, sì, e da te Massimiliano Cuppa la senti, Massimiliano. Adesso alzo la voce, com'è? Perché ho sentito l'audio e sono proprio basso di voce. Ecco, così, a che distanza sei così dal microfono? Così va bene. Per me va bene, Riccardo, ma va bene, non lo so. Non so cosa dirti, per me va bene, molto meglio del 60. Tenendo conto che il 60 non lo potevi aumentare, questo che lo puoi aumentare, il Mickey Gain non fischia, perché c'è una diversa sensibilità al microfono, un fatto diverso, e per me va bene, poi non lo so, Massimiliano, tu la senti cupa o no? Sei parito Massimiliano? Ecco. Avanti, break. Riccardo, torna a parlare, a vedere, che ti voglio sentire io. Capito, a tutte parti, Claudio. Prova a parlare Ricca, che vediamo un po' com'è questo microfono, dai. Avete parlato in quattro. Se mi ha dato il break Claudio, scusa, abbi pazienza, un attimo, Riccardi, prova a parlare. Ok, provo a parlare adesso, sono distante al microfono e dimmi come mi senti, Natalino. Ascolta, metti un po' di APAC lì e non toccare più nulla, che adesso sei perfetto. Claudio, registrala adesso e mandagliela. Ecco, devo parlare a quella distanza, così va benissimo. Parla Riccardo che ti registro, fai un passaggio un po' più lungo. Perfetto, allora lascio così, non tocco più niente, come ha detto Natalino, metto l'attac. Ci ascolta questo ultimo messaggio che ti ho mandato a vedere. Io non l'avevo preso. Sarà giù io un pochino diverso, ma comunque per me va bene così qua, per me lo puoi lasciare così, è anche troppo forte. Ascoltati il messaggio e guarda se c'è differenza dal messaggio di prima. L'ho sentito. Ti piaci? Ti piace la modulazione? La modulazione sì, la mia voce no. La tua voce è quella, Erika. A me madre natura mi ha dato queste timbre, questa timbrica, e nessuno mi può dire il contrario. Tu c'hai quella timbrica e non lo so. Ordinati un altro MC60 oppure aspetta che Fabrizio te lo rifaccia nuovo, quello non so cosa dirti. La timbrica dell'MC80 è quella. E con me non cambia, assolutamente. Sia l'80, sia il 60, sia l'85, sempre quella è la modulazione. E sia tutti i microfoni cagati che ho di 30 anni fa. Vabbè, ma tu lo finirai tutti anche i cicafusi. Però voglio dire, secondo me va bene questo al momento, anche al momento, poi vediamo se vuole questo. Sì, metta a posto questo, tanto Gio Claudio non ha problemi, te lo lascia questo microfono al momento, poi dici di cosa fare. No, già non c'è problema. Tanto in questi giorni adesso c'è un po' di roba sul banco, come tolgo quella roba lì, metto l'MC60 sul banco e vedo un attimino di sistemarlo nuovamente. Così poi io magari lo do, te lo porto, vado a tuo padre, lui ormai sa cos'è, poi già c'è Claudio e fate le prove una e l'altra, così gli è un consiglio quale può uscire meglio, quale gli piace più, se no con questo comunque è tutta un'altra cosa. Io che vedete i segnali e la modulazione che mi ci dia, in confronto a come era prima 5-6 e dovevi mettere le orecchie di porco per sentirlo. Fabri, non c'è nessun problema, lo sai. Il microfono lo può tenere quando vuole, come vuole, quando poi decide cosa fare me lo dice. Per me è dialogato a provare e ad usarlo, quindi non ci sono problemi. Poi preparare l'altro e poi faremo le comparazioni. Per me va bene così, poi c'è a chi piace, a chi non piace, a me piace sia quella che l'80, sia il 60 che l'80, il 60 però io lo voglio sentire amplificato perché altrimenti è un microfono normale. A quel punto lì le mandavo l'MC50 che ce l'ho e attaccavo l'MC50 e allora non aveva problemi per usare un microfono a tavolo non amplificato, tutto lì fa bene, per me va bene. Tu stai uscendo spettacolare, come che usi il 60? Sì, sono d'accordo, anche io li ho provati, ho avuto l'80, ho avuto l'85, il 60, però alla fine ci vanno bene tutti quanti. È che il 60 è lì più fino, lo metti lì, eccetera, eccetera, è ovvio, però poi escono tutti bene questi microfoni, si abbinano bene con questa apparecchiatura. Vabbè, ma dovete pensare che Riccardino ha la voce bianca ancora, capito? Adesso è perfetto, va benissimo, per come l'ho ascoltato io è perfetto adesso, Riccardino, però ha la voce bianca, non ha le vostre corde vocali, che è ancora piccolo. Sono rientrato, scusate, ero con TH piccolo. Vai Ricca, riprendi, vai, facci sognare. Vi faccio sognare con il nuovo microfono. Adesso vedo comunque, quanto ho capito sta andando meglio del 60, visto che questo almeno è amplificato. Ascolta Riccardi, dille a quelle altre tre persone che stanno parlando dietro di te, dalle un cavallo che si fanno un giro, vai, falli allontanare dalla radio che si sentono più loro che tu. Non ho capito a chi. A Roberto, a Fabrizio, a tuo padre, dille di andarsene da dentro il garage. Dalle un cavallo, dille di farsi un giro. Ci sta chiedendo il break per un controllo, non stai uscendo di radio, sei tutto completamente saturo. Deve essere Claudio da Muros, boh. No, Massimiliano, ti ho capito, ti ho scusa, pensavo che tiri. Che ti si aspetta la radio, vai. Non ho mai capito. No, no, per me va bene, poi io appunto volevo sapere se era cupa, se tu la sentivi cupa, ma io cupa non la sento. È bella amplificata, bella chiara, ha una modulazione diversa da 60. Aspettiamo quando Fabrizio ti dà il 60, poi decidi cosa vuoi fare, se tenere quello al 60 o se tenere solo il 60, problemi non ce ne sono, ok? Adesso sta uscendo bene, io l'ho sentito, sta uscendo bene adesso, per me va bene quello il microfono. Ok, va bene, allora. Va bene anche il fatto che non innesca, sta andando bene, tutto l'insieme sta andando bene. Se vediamo che l'altro ha problemi proprio circuitali, c'è un problema. Però tu considera che io praticamente ho preso una bassetta e l'ho ricostruito, e stava andando, magari si è scollegato qualcosa, ne sta accorto, io non lo so. Però comunque è questo, c'è il fatto che non innesca, che può sollevare, ok, va bene, comunque scusate, mi assento un attimo e ritorno subito. Sì, non si sente nessun innesco, nessuna alternata, nessuno niente, però si sente più Roberto Quadrato, Fabio Dendi che Riccardo, hai capito quello che ti voglio dire? Sì, ma deve provarlo quando non ci sono loro, oppure ci stanno zitti, però è perfetto adesso. Cosa si diceva nell'80? Da dietro cosa si regola nell'80? Oh! La preamplificazione, chi è che ha detto? Il più forte, ecco. E beh, come sto uscendo io con questo baracchino? Con quale baracchino? Con questo baracchino qua. Maga, guarda, ma chi sei? Roberto Quadrato. Ma Roberto, tu sei? E beh, perché non si sente. Vai, vai, fate un giro a cavallo, vai. Cavallo, la sella ce l'hai, ho un cavallo a donna, la virai. Un pezzo di straccio ti metti sopra, fatti dire. No, no, tu non fai bene con l'80. Va bene, e poco fa ci andavo bene, va andando più bene. Ora, già sta uscendo, si pensa che sta uscendo questa apparecchietta, dai. Ma te lo dico, quando si va da fa una prova, butto qui su casino, boh, cazzo si può fare di nulla. Sì, per me è più bello di 60, bui. Oh, vabbè, dai, vi lascio fare, dai, stiamo andando da un'altra parte, dai, continuate. Ma sopra il microfono stai parlando, Roberto? Ah, ma aspetta, io parlo così a casa mia, sono seduto in una sedia un po' scomoda, adesso come mi ascoltate? Adesso meglio, perché è tutto un po' pedinato, aveva ragione Giulio che ricupo. L'80 per me è molto più sensibile rispetto al 60 e nessuno mi può dire il contrario perché io li ho provati tutti. Io ho un modo di parlare, io parlo bello tranquillo a 30-40 cm sia alla 60, all'80, 85, da tutti i microfoni. Allora timbrica tua con l'80, ragione Massimiliano, fa schifo. Vabbè, vi lascio un attimo, dai, dopo riprendiamo, dai, a dopo, ciao. Io lo dico semplicemente che per me sullo 430, 440 va meglio 60, poi ripeto, ognuno i suoi gusti. Anche Roberto ha cambiato completamente la voce, perché quando parla a casa sua con 60 è spettacolare. Qui per me non è perfettissima, tutto lì, cosa vuol dire? Poi se era vicino al microfono è un altro discorso, se è questione di distanza è un altro discorso ancora. Poi che ci sia più potenza, più volume, senza dubbio l'80 è più forte. No, io sto parlando della qualità della modulazione, non so come vedere della potenza, la potenza è un discorso, la qualità è un'altra per me, io la vedo così, poi cosa volete che dica? Okay. Adesso stanno uscendo male loro, perché è regolato sulla voce di Riccardino, capito? Poco fa ha fatto un passaggio Fabrizio, che era perfetto lo stesso, però adesso è regolato per Riccardino, è logico che loro due escono male. Oh Giulio, hai fatto un errore, però ti correggo, e ti posso correggere qua. Hai detto che nel 430, nel 440 l'unico microfono va bene il 60, non è assolutamente vero, perché io ti dimostro che io uso il 60, l'85 e l'80 su tutte le radio Kenwood e tu non noti differenza, noti solo magari differenza di potenza, ma la qualità è sempre la stessa. quindi la differenza è, che tu ben conosci, che a determinate persone gli si addice solo l'MC60 con i Kenwood, a me mi si addicono tutti i microfoni Kenwood, quindi è differente. Cosa vuol dire? Che tutti i microfoni si devono adeguare alla modulazione, alle corde vocali. A loro non li si adegua un po' più a Fabrizio, ma ad altre persone, compreso tu, sicuramente ti va bene solo il 60. Penso che sia questo, no? Il ragionamento. Ah, si può. Sì, un attimo. Certo, ma è quello che ti sto dicendo anch'io. Ti sto dicendo anch'io quello. Tu non fai il testo, tu puoi usare, l'altro giorno te l'ho detto, tu puoi usare anche un corno di bue. Tu non fai il testo con qualsiasi microfono, perché è una timbrica tutta particolare. Però io sto parlando adesso di un Riccardino, sto parlando anche di Roberto, il passaggio che ha fatto poco fa. Per me Roberto, in questo passaggio che ha fatto ultimamente, era totalmente diversa la modulazione dal 60. E lo preferisco con 60 a Roberto, e anche a Riccardo lo preferisco con 60. In quanto a qualità, in quanto a chiarezza, poi lasciamo perdere la potenza del microfono, è un altro discorso. A te ti piace una modulazione più rimbombante, più forte, vabbè, nessuno ti discuta questo, per carità, ti dico che è più forte, però come qualità dell'aria io la sento meglio con 60. Ecco, quello che intendo. Sì, sì, sono d'accordo con te, la qualità è completamente diversa con Roberto e con Riccardo, ma in altre circostanze vanno bene entrambi i tre microfoni della K, capito? Chi è che ha detto si può avanti? Buonasera, volevo sapere là, se la voce, la radio è migliorata. Sì, un po' metallica, ma va bene. Tonino sono, dai. Sì, ho capito che sei Tonino, sì, ti ho detto un po' metallica, ma già va bene. Claudio, stai uscendo pessimamente male, non riesco a capire. Ho capito Claudio, però non riesco a capirti, sei tutto saturo. Te l'ho già detto due volte, stacca quell'amplificatore perché non va bene. Hai capito Tony cosa ti ho detto? Che è amplificata ma è metallica, Massimiliano. Io già sono qua, mi sto ascoltando. Sì, ho capito, lei sto usando, ho adattato quelle tarre più tre, tutto qua, là. Ma la sento metallica, Massimiliano, tu come la senti? Così, come hai detto tu. Però è migliorato dal mic dal male, dai. Ho capito, ma sei metallico, pari dritto a un Carlaro. Così mi piace a me. E se ti piace tu ritieni, te la Giulio. Cosa vuole che dica? Beh, in effetti un po' di metallico ce l'ha. Ciao Tony. Ciao Giulio. L'importante è che mi faccio sentire poi. Allora usate domande di controllo a noi, se ti piace così, l'importante è che ti fai sentire e devi dire. Oh, se andiamo a vedere tutte quante le radio dei CMI, c'è sempre un piccolo difetto. Io non agio difetti, questa è la mia voce da 40 anni. Dal 1989, sì, dall'87, non sono più 40 anni, comunque, dal 1987 io uso sempre questo microfono, quindi difetti non agio, non mi ha mai detto nessuno che agio difetti, anzi c'ho pregi nella radio, ma non difetti. Quella è una modulazione che è più alta rispetto al microfono normale, ma è metallica, a me non piace. E la tua rimane grossolana, capito? Aspetta che abbassa un po' qui. Sì, ce la fai, lo stesso lavoro che ho fatto io con Giulio a Tarne più 2. Abbassare l'impedenza della capsula sicuramente, perché anche quel Tarne più 3 c'ha l'impedenza alta della capsula, no Giulio? È probabile, magari per la sua voce probabilmente ci vorrebbe una piccola correzione. Poi che cosa volete dire? Se dovessimo dare adito a tutte queste cose, allora tutti i microfoni che usiamo li dobbiamo regolare. Ripeto, tu Claudio puoi usare un corno di bue e non cambia niente, la tua modulazione è tutta particolare, è super modulata, bella sia come potenza che come chiarezza, però non tutti noi abbiamo la stessa voce e io sto appunto valutando quello, sto valutando niente di più. Ad esempio quel passaggio che ha fatto Roberto poc'anzi per me era appunto brutto, forse perché sono abituato a sentirlo in maniera magnifica anche a lui con 60, non lo so, Poi se devo dire che lo capisco perfettamente quello che dice, è tutto un altro discorso, non ci sono dubbi, questo è scontatissimo per carità, intanto perché arriva fortissimo di segnale, e poi anche perché era fortissima la radio, però la timbrica l'aveva completamente cambiata. E non mi piace quel tipo di microfono per Roberto. Poi, magari lo posso usare io, può essere che va bene, può essere che non, se lo usa bene, che lo possa usare Massimiliano, e può essere che va bene. Questo non lo so, lo devo sentire, tutto lì. No, non abbiamo già fatto le prove anche con Roberto, con Massimiliano. Ma va bene, MC80, li ho dati tutti.